later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli tutto scorre nella più pigra indifferenza, Kappa e Drago soffrono i sintomi della pollizzazione. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Kappa, dai, adesso cosa fai? Cosa faccio? Non capisco. Non capisci. Stai cosa? Stai lì, strabuzzi gli occhi, muovi la testa a scatti. E allora? Guarda che io stavo proprio guardando te e notavo che strabuzzi gli occhi e muovi la testa a scatti avanti e indietro come Totò. Come Chicken Head? Sì, come Totò. Io? Sì, Drago, tu. È la pollizzazione, ma non dai, c'è niente da cosa fare. Cosa vuoi dire? Non esiste la pollizzazione. Drago, è l'ambiente che ci condiziona. Vabbè, dai, l'ambiente ci condiziona e noi mutiamo, noi cambiamo. Non lo so, non lo so. Spero di no. Sì, speri di no, però. Però si direbbe di sì. Anche se non sono un indovino e non posso predire il futuro. Sì, però. Sono solo un. Sei solo uno. Però la vicenda del pollo in sbattimento per predire il futuro, insomma, non mi sembra tanto rassicurante. Lui è passato da venditore di dischi di kraut rock a pollo. E adesso è un pollo. Un pollo paranoico che soffre di fobie sociali. E noi invece che cosa potremmo diventare? Noi? Fammi pensare. Io da piccolo andavo matto per i fenicotteri. Fenicotteri rosa, sì. Ma ti vedi, ma che figura faresti come fenicottero rosa? Ma come, perché? I fenicotteri sono molto eleganti. Appunto, tu non lo sei abbastanza. E poi, Drago, il fenicottero rosa. Dai, Drago, cosa? È inutile che mi scimmiotti. Il fenicottero rosa, prova a pensarci. Ma perché? Ma cioè, come cosa perché? C'è che non va? Dai. Ma, Drago, senti, se chiedo a un uomo grande e grosso come te in quale gallinaceo vorrebbe trasformarsi, mi aspetto risposta da un uomo grande e grosso come te. Cioè, che ne so, un'aquila reale, un falco. Dai, non un fenicottero rosa. Scusa, ma cosa c'è che non va nel fenicottero rosa? Cosa c'è? È il fenicottero che non va o il rosa? Non so, vedi un po' tu. Il regista americano David Lynch, I always say that ideas are like fishing, ha telefonato per consigliare il rientro in scena a sorpresa di un personaggio che poco per volta ha abbandonato la fabbrica di polli per dedicarsi al ruolo di marito o moglie del colonnello Ungiute. Stiamo parlando dell'amministratore delegato della fabbrica di polli. Siamo tornati dal nostro viaggio di nozze, siamo andati in Florida. Abbiamo sofferto molto durante il viaggio di andata, perché in aereo non si può più fumare. Ungiute fuma più di me. E ci siamo inalberati molto, perché tu sali in aereo e sai già che non puoi fumare. È già un'ora in aeroporto che non si fuma e sei già nel brastenico. E ti fanno salire sull'aereo e subito ti danno in mano un bicchiere di vino. E dopo non sei ancora partito che già te ne danno un altro. Poi ti siedi, allacciare le cinture e ti danno un bicchiere di whisky. E ti viene la cirrosi epatica. Sei già ubriaco prima di decollare, però non si fuma. Poi siamo arrivati, siamo stati bene, siamo andati in giro. Abbiamo fatto shopping. Abbiamo corso insieme, mano nella mano, sulla spiaggia. E poi siamo tornati. Di nuovo l'incubo del fumo. Niente, non si fuma, in aeroporto non si fuma, sull'aereo non si fuma, si scende e non si fuma, poi si fa la coda per il taxi, si fuma una sigaretta, la si butta via perché sennò la coda del taxi diventa troppo lunga e quindi niente, siamo arrivati a Malpensa e siamo andati a trovare i miei genitori e lì è successo quello che è successo. La fabbrica di polli. Ora l'etologo studia il loro sguardo perso, il veterinario cura il loro umore inverso. Erano uomini alti eppure belli, si ritrovarono per sempre ad esser polli. Così va il mondo così va, chi va col pollo impara a razzolare, scherza coi polli, ma lascia stare i polli. And so we sail together. Peace to you, Kappa e Drago. Peace to you, Drago e Kappa. Peace to you, Kappa e Drago. Peace to you, Drago. Middle of nowhere. Colonnello, un ghiotte! Beh, sono andato con un ghiotte a trovare i miei genitori. C'era la nonna a pranzo. La nonna è una persona molto all'antica. Non le è piaciuto per niente un ghiotte. Lei, quando c'è qualche cosa che non va, picchia mio papà. Però lei è la mamma di mia mamma, non di mio papà. E niente, non è andata bene con un ghiotte, non è andata bene per niente. Tant'è che lui alla fine se l'è presa, insomma, si è offeso e mi ha lasciato lì da solo. E adesso non so dov'è, se n'è andato. Non mi ha più telefonato, non mi ha più cercato. E sono già 3 giorni che non ci vediamo. Chicken eat crap. E tu, Kappa, in quale gallinaccio invece vorresti trasformarti? Sentiamo un po'. Io? In uno struzzo. Ecco, vedi che però è questione di gusto. Io preferisco il fenicottero rosa perché, capito, è un po' più elegante. Lo struzzo non mi piace, è troppo grasso, troppo pesante. No, attenzione. Lo struzzo sarà enorme, ma è anche agile e veloce. E sì. Potente. Vabbè. Mica come il fenicottero, che ha quelle zampine che sembrano due stuzzicadenti. Dai, Drago, lo struzzo ha due cosce così. Ho capito. Se corre, non lo fermi più lo struzzo. Ma dai, frena il tuo entusiasmo, Kappa. Frena. Secondo me... Il nostro destino non è diventare fenicotteri e nemmeno struzzi. Ah no? E qual è? È quello di diventare dei polli, dei polli da macello, visto che le uova non le sappiamo fare. Ma è una tristezza. Lo so, ma non vedo come potrebbe essere altrimenti. Uè, pollastri. Ah, pollo in sbattimento, ciao. Ciao. Che tristezza. Ma sapete che vi vedo sempre peggio? E cosa vi sta succedendo? Sta succedendo che hai una malattia che ti sta facendo abbassare la vista. Questo è molto divertente. No, perché, scusate, siete spettinati, arruffati, ingrugniti. Questi begli aggettivi, No, sembrerebbe che vi state di nuovo polizzando, voi due. Sì, però i sintomi erano spariti da tempo, come... È possibile? Non capisco. No, è possibile, sì, perché i cicli di polizzazione non è che sono poi così scontati. Non si sa quando cominciano e soprattutto quando finiscono, cioè quando arrivano al loro compimento, Perché all'inizio la vostra polizzazione è stata graduale, no? Sì. Poi si è bloccata e adesso sembrerebbe che sta ricominciando, Quindi, buona fortuna. È più tardi di quanto sembra. Dove vai? È molto più tardi di quanto sembra. Pollo! Ma Pollo, dove vai? E basta. Aia! Che cosa succederà adesso? Quale segreto minaccioso nascondono le sibilline parole del pollo in sbattimento? Lo saprete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo strabuzzante allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Ladies and gentlemen, good night. Bar Lumen.